cambiare e sono da te. A chi ciò veramente va a dirsi? Due minuti e sono da te. Che pagava? Tu già pensavi che ero morto? No! Come mai? Sono stato pietrato, faccio. Non tu, io ho bloccato a Chiesi, stiamo facendo delle cose che poi ti dirò. E sto arrivando adesso, mi sto spogliando. Sono qua nella stanza proprio delle rade dove io appoggio la roba da lavoro e travaglio pure domani o solo. Quindi dammi due minuti e sono da te e mi puoi fare qualsiasi domanda. Perché? Hai sentito la mia mancanza? E allora, già lo credo. Non ti preoccupare che io non muoio mai, sono incasinato un po', credimi, come un fratello, c'erano con gli addenuti, io domani mattina mi sono sceso ieri, ho acceso ma così il computer per l'apposta, velocemente, e ho fatto una cavellata proprio veloce. Usch, mi gioco pure che volte il gatto gioco, mamma mia, ho fatto una carrellata così veloce e poi ho spento e mi sono messo a letto perché ero veramente a pezzi a tu, ci ho incasinato un pezzo, stiamo facendo dei lavori, delle cose molto molto importanti, quindi sto seguendo un po' il lavoro, sono un po' assente alla radio, vabbè, ma no, non fa niente, sappi che quando due minuti ci sono e non ti preoccupare, però cazzo, ti ho chiamato anche l'altra volta, questo cazzo di telefono che hai spento, perché avevo un'oretta praticamente di trasbordo e sono passato a prendermi caffè dove tu sai, e alle 7 ho detto che chiamo Antonio, cazzo, mi avete il telefono anche l'altro. Ma sempre accesso il telefono, come? Per esempio, mi dava BBB. No, sempre acceso il telefono. Lascio andare che non prendeva la linea, boh. Cazzo, dai, no, cacchivi la linea, non già mette fatti, fanno di linea bis. Kappa. Kappa, non ti preoccupare, sono bucato, e ci devo andare domani mattina a trovare Claudio. Ehi, me l'hanno detto, non ti preoccupare, no, non abbiate problemi, no. Tra l'altro tieni conto che il tempo era la cazzo dei cani, quindi mi sono trattenuto avanti ieri, mi sono trattenuto a 10, non sono manco rientrato. E c'ho l'alloggio lì, quindi sono rimasto lì. Non si poteva viaggiare, sono rientrato ieri. Mi sono controllato la posta, ho fatto una carrellata su Paltar, che ho visto anche a Luca, infatti ho detto ciao Luca e basta, poi nel frattempo mi stavo facendo la doccia, preparando la roba pulita eccetera, sono rimasto in un'altra room, ascoltando un po' di musica e niente, poi ho spento tutto e me ne sono andato a letto. E alle 5 sono ripartito per 10, quindi è un po', sono un po' incasinato in questi giorni, dai. Sono un po' incasinato, però sappi che non c'è problema. Novità per quanto riguarda la frequency, niente? Oh, niente. Pensando che se sta modulando la papattardo sul 12, sono i suoi colleghi sul canale 12, sono andato giusto a salutare, anche stasera stavo modulando, macchina entrata da passo non sai, ho girato il canale, boh, bacia, non se ne va a vedere più. E diamo un dialetto, non c'è problema. Vabbè, quella persona che tu sai è in viaggio, giustamente va dove c'è gente, va dove c'è gente, quindi tu non te ne fare un problema, non te ne fare un affutidini, vivi e lascia vivere come si dice, e quindi prendi le cose come stanno e giustamente un lavoro produttore, se c'è il questio per la compagnia, per il produttore su Sassari, è giusto che lui ne approfitti, quindi va bene così, ma sappi che, e ne ho già parlato di queste cose, tu non me ne volere male, ma sappi che io sono fatto così, cioè se per questo vivere si va bene per tutti, e quindi niente di particolare, ok? Quindi rassegnati se tu fai questo dove ti va, dove ti pare piace, sappi che gli altri la fanno dove vogliono, diciamo, dai. Vabbè, no, non è che mi interessi più di tanto. Non mi è interessato più di tanto. Va bene così. Ecco, allora, Fontidini, pensa alla salute, alla reciproca convivenza al canale 12, un canale che da anni convive con Porto Torres, a me non me ne frega assolutamente niente, e non ci parlo perché dopo la telefonata che ho ricevuto magari qualcuno sa che non... o chi l'ha fatta sa che non... io non sono al corrente, ma siccome sono al corrente perché non sono furbo, io non ci parlo sul canale 12, quindi non me la futti nuda. Se tu vuoi parlare sul canale 12 va bene, se c'è Sandro va bene, se c'è Giampaolo va bene, ma altre persone a me non me ne frega niente, quindi io lavoro qua sul canale 10 e sul 10 rimango, poi chi vuole entrare per carità benvenga, ok. Io sono arrivato adesso, datemi il tempo di potermi fare una doccia, di potermi mettere in sesto perché ne ho bisogno, e rilancio il microfono, mi pare capito, non ho neanche voce perché ho preso tanta di quell'acqua, tanto di quel freddo, tanto di quel bim bum bam, in questi giorni che manca i cani. Allora, avanti Cap2, buonasera Claudio Sparviotti di Lancia, e poi in retta Gianni per Forchetto, avanti. E non se ne fare struccia. Ma tu riprendo subito, mi batto una doccia. Sentito per il tratto. No, io giustamente sono entrato lì perché su 10 non rispondeva nessuno, c'era Sandro. C'era Sandro, dopo il dottore, stavo discutendo con lui, tutto qui. E niente, capito, tutto qua. Con quei giorni di neve ho preferito non viaggiare, rimanere sono rientrato ieri sera, ho acceso il computer per vedermi un po' la posta, per vedere un po' tutto, ho fatto una carrellata anche su Paltal, che ho visto a Lucca, ma diciamo una mezz'oretta nel frattempo che un'oretta, se non ricordo, insomma, un po' così, per vedere un po' la situazione, poi ho spento tutto e mi sono messo a letto e poi alle 5 sono ripartito. Non è che abbia queste grandi cose, diciamo, vai, tutto lì. Però se è successo qualcosa non lo so, perché io ero completamente assente. Non è successo nulla di particolare, la frequenza era avuta e allora niente, tutto qua. Ok, so che non può succedere, diciamo sono molto, vabbè. Due posti sinistra, e perciò ho preferito rimanere un po' stabile, ecco. Tutto qua, la mia assenza, cambio. È positivo, è capibile, tu hai fatto anche bene, non spostate, perché questa neve non è che sia tanto buono viaggiare, sia neve che freddo, temperature basse, non va bene, lì è preferito rimanere giustamente per cause neve. Ecco, adesso ho capito la tua assenza, ma si capiva anche da prima che la lettera sarà impegnata da un trabacco e niente, dai, tutto qua. Sì, tu non ti preoccupare, il problema è solo quello. Nessun problema. Insomma, figurati, sono entrato dalle 6, da stamattina alle 6, perciò domani mattina sono nuovamente attesi, perché devo continuare a fare le cose che ci sono da fare, eccetera, eccetera. Perciò non tutto lì il problema, sono sempre lavorando. Quando io non sono alla radio sono a lavoro. Sono a lavoro e da fare tanto, come si dice, proprio come una canzone, capito? Adesso spero di riuscire a fare qualche giorno di riposo, insomma, perché dal 9 di dicembre io non mi sono ancora fermato. Manco un giorno, manco una via, devo più impegnare al suo massimo. Impegnato tanto veramente, te lo dico come un fratello, impegnato alla grande. Vabbè, pazienza. Io a Cagliari e non ho trovato tra l'altro anche per la giornata. Ho passato una giornata all'inferno perché sono rimasto bloccato a Campera, sono rimasto bloccato sotto a Serrenti, che c'è un incidente, e quindi sono rimasto bloccato quasi mezza mattinata. Quindi macchina, ti immagini, ti casino, bim bum bam, roba da consegnare per campionamenti. Ma credimi che non è facile, quando arrivi a casa se hai 10 minuti, un quarto d'ora, 5 minuti, e di per la famiglia intorno, non essendo neanche di radio. È giusto anche che sia così. Dato un fischio, facciamo entrare avanti il fischio. Buonasera signori. Ciao Sandro. Ui, guarda che si sente. Come sei uscito dal nido? Buonasera a tutti. Dal nido Roma, dai problemi lavorativi. Mi sono entrato alle 6, ho fatto che Sant'Antonio un attimino di pausa per potermi sistemare un po' e fare due chiacchiere, tutto qua, ma sarà proprio una cosa molto molto passeggera, perché sono quell'inghi dentro, come si dice, no? Avrò senso a ma perché sono cotto, a chi non ha giovane, ma quelli robe da Sandro. Io sono stanco, sono entrato anche oggi da fuori, tu immaginati tanto che per poter trovare alcune cose, sono andato a Cagliari, ho dovuto consultare Sandro e mi ha dato un riferimento col computer, perché non avevo neanche minimamente l'idea di dove stavo andando, tutto qua, quindi ti puoi immaginare in che condizioni ero in quei giorni, capito? Kappa, me ne è entrato Sandro, è purtroppo così. Va bene, va. E ok, dai. già ti capisco, Claudio, già ti capisco, tu prendi freddo, tu prendi cosa col tuo lavoro che fai, logicamente sei a disposizione, diciamo, dal freddo che cosa. Va bene, dai, io sono entrato giusto per, stavo spazzolando, ho sentito questa voce familiare e ho detto mi sembra dovere entrare per salutare. Comunque vi lascio perché devo uscire, devo fare le commissioni. Ciao Claudio, se coincide più tardi, Parchetto, noi già ci sentiamo ogni tanto, vai. Noi già ci sentiamo ogni tanto. Ok, salutoni a tutti. Vai, perché vai. Ciao Sandro, buona passeggiata, buon tutto. E ce la riascoltiamo, avanti Claudio. Ciao Sandri, grazie di tutto, la collaborazione e soprattutto quella cortesia, perché mi è stata molto utile, e quindi ci sentiamo, ci aggiorniamo là personalmente. Io che ore sono? Le 20:30 e 30 qualcosa, magari ancora un po', poi andrò a cena, vediamo un po' com'è la situazione per domani, d'accordo. Ciao Sandro, se vuoi ci sentiamo dopo, altrimenti passo e chiudo, come si dice, KK. Ok, dai, magari se coincide, più tardi. Dico un'altra cosa, da parte mia, con gli ascolti, sempre lo stesso, sì. Sì, sì, alla grande, senza problema. Ok, dai, riprendi il pacchetto. Se coincide più tardi. Va bene, ciao, ciao, ciao. Ehi, anch'io mi preparo per la cena. E dopo, fine a Puglia, spari la prima pietra. Così qua. Infatti. Non c'è problema, dai. Ciao Sandri, ci sentiamo dopo, ti ho sentito anche sul 12, salutami Giampaolo se lo senti, un abbraccio grande e spero di poterlo sentire alla grande sul 10 e sul 12, salutamelo, se mi sente, non lo so, comunque, se mi sente un abbraccio grande, altrimenti salutamelo tu. Ci sentiamo, Sandrino, ci sentiamo. E allora Valche, che si dice? Novità, mi racconti qualcosa? Niente. Ehi, novità, Claudio, mi sembra tribolato, abbiamo quasi finito di montare le stessure, il lavoro è scarseggia, sa che avremo sì o no una settimana di lavoro e poi siamo tutti a Domus dei Anas. Ehi, Domus dei Anas, ui, dai, che ci sarà sempre qualcosa da fare, sicuramente ci sarà qualcosa da fare, un po'. Non è così. Non credo che sia così preoccupante la situazione, dai. Prendi tutto positivo. Purtroppo lavoro scarseggia un po' da tutte le parti e è sempre del nostro, non so se hai letto il giornale, è un po' anche il nostro va a cazzo di cane, per non dire a cui scimmia. Ah, ma stavo sentendo che messo male nel continente, dice che abbiamo messo un verbale grosso alla vostra ditta, il continente parlo e non può essere detto. Ehi, solo quello c'è, lascia vedere, beh, la multinazionale spagnola oramai ha incrementato tutta diciamo la Sardegna, questo mi ricresce perché il passaggio che abbiamo fatto è un passaggio diciamo attivo, nel senso che le preoccupazioni almeno per noi sono finite. Io sono passato telegiornale che dal 2011 aumenta il costo dell'acqua, quindi del 10% a famiglia, mi pare ci sia scritto, insomma, una cosa del genere. È chiaro che la multinazionale, acquistando il 40% delle quote dell'acqua, voglia essere rispettata per quello che è il guadagno, quindi io non faccio gli interessi dell'azienda, tanto faccio gli interessi dell'utente, giustamente, ma perché anch'io sono un utente, nonostante sia dipendente, sono sempre un utente. Riesco a capire il problema di quelle persone che come utenti non riescono ad avere quel budget per poter pagare il servizio di idrico integrato, che è quello del Nord Sardegna. Poi di questo se ne parlerà sicuramente più avanti, ma sappi che i costi sono tanti e che l'azienda, la mia azienda, che è una multinazionale, oggi come oggi, crede in quello che è il guadagno di questo bene comune di tutti. Credo proprio di sì, credo proprio che sia così, è ben ovvio, è logico, è un bene comune per tutti e bisogna anche saperlo rispettare, è vero, vero, vero, vero. Quando vuoi andare a caricare, dammi l'ok, anch'io carico. C'è problema tu, ponimi da fischio moglie, io parto. No, ma l'unica cosa che io non diciamo, non è che non capisco, perché sono nel settore, non condivido, è che determinate cose vengano fatte solo perché un'azienda a capitale pubblico come la mia, perché un'azienda a capitale pubblico abbia tutti questi grossi problemi, quindi subentrare una multinazionale spagnola e potergli pagare i debiti, questa è la vergogna della Sardegna, ve lo dico con molta franchezza, lo dico con molta mistichezza, ma lo dico soprattutto con molta sincerità, forse perché sono un dipendente, forse perché sono una persona umile, una persona corretta e che crede in quelli che sono i problemi della Sardegna propria. Lo dico a tutti quelli che stanno ascoltando che è veramente una vergogna che per poterci pagare a noi sardi i debiti debbano entrare e subentrare aziende multinazionali e soprattutto aziende con capitale non pubblico. E ciappa ciappa. È vero, è vero. È vero, hai ragione, hai ragione. Non perché io sia un dipendente, ma lo dico a livello di utente, è una vergogna per noi sardi, che tutte le volte che noi sardi abbiamo un problema devono subentrare per accorparci i nostri, o per accorparsi i nostri problemi, debbano subentrare aziende al di fuori del nostro, della nostra tutela ambientale, che è quella che la Sardegna. Io credo che in tutto il contesto sardo sia ora che qualcuno si svegli e dica basta, basta e poi basta, perché a me non me ne frega niente che mi dia lo stipendio a Banoa, come lì a Ciona, a me che cazzo me ne frega, io sono un servizio idrico che talmente è pubblico, che talmente non c'è oro a pagarlo, perché è acqua, stiamo parlando di vino, di acqua, subentrino le multinazionali, che siano spagnole, che siano tedesche, così come la luce, perché forse qualcuno non sa, o lo sa e non lo dice, che noi paghiamo la luce a una multinazionale tedesca. Attenti, il marchio Enel non esiste. Noi paghiamo la luce a una multinazionale tedesca. E quella è un'altra vergogna grossa. Quella è un'altra vergogna grossa. Ma qua in radio si parla di perché mi stai mettendo la portante, perché mi stai sovramodulando, perché me la stai mettendo nel culo. Ma parliamo di quelli che ce la stanno mettendo nel culo a noi. Davvero, è proprio così. Allora vediamo, c'è sonno, che le cose non sono come Dio ha creato e come ci ha dato, sono cambiate talmente tanto che la vergogna della Sardegna oramai è a livello internazionale, non più nazionale, internazionale, perché credimi Antù, io 20 anni di lavoro, 20 anni di servizio in ente pubblico e ho cambiato, e sottolineo, cambiato 6 volte azienda in ente pubblico. Immaginiamoci chi lavora in ente esterno, cioè chi lavora in società private. Mi disco, Maria Giuseppe, un casino a totale, Maria. Non so voi, a me mi arrivi sempre lo stipendio, sempre, a chi su, deve arrivi sempre, no? Ma dico, ma porca puttana, abbiamo iniziato con la Sinos, cosiddetta, io sto parlando del settore di Sassari, Sinos, la Sinos cambia. Entriamo in questo cazzo di carrozzone che non venne a dirlo, non faccio nome, mi hai già capito. In questo carrozzone ci sono quattro società che fanno a capo, perché essendo un SPA ci sono i capitali sociali determinati e quindi è chiaro che ci sono altre società che fanno a capo. Di queste società la prima giustamente è quella che sono io, poi ti dirò, eccetera. Ok, ma è mai possibile che la società principale, quella che fa capo del servizio idrico, ci abbia 600 milioni di debiti in euro baromi? Sono casino totale. O di cazzo andare di là, dimmi un di cazzo andare di là. Cioè, ma tu ti rendi conto tu cosa vuol dire? Per un regresso familiare, lo Stato, la Regione impone alla società che sta gestendo il servizio idrico integrato in Sardegna di aumentare 15 euro a famiglia. Ma cazzo, ma c'è gente che non ha manco quindi Dio non mi accompagnerà mai. E infatti, cioè non è nell'ottica delle famiglie, cioè loro prendono questo, non come che fosse nocciolino, 15 euro, per loro non vuole niente, ma per famiglie che non hanno niente, che non hanno neanche un euro a comprarsi il pane, non si rendono conto queste persone, Nessuno interviene, evidentemente il discorso è in appellativo. Sì, Antò, ma cazzo, cioè, il discorso è molto semplice. A chi tu puoi imporre, a chi tu, azienda, del servizio idrico puoi imporre a un'utenza di poter pagare tanto? Cioè, ma tu ti rendi conto cosa vuol dire 15 euro, 15, sì, adesso, così, normalmente, a famiglia, vale a dire in imponenza al consumo, noi stiamo parlando di 1,50 euro in più a metro cubo, a buffo né di gatto a velo. Ma non esiste nel modo più assoluto, perché una famiglia tutelata a reddito zero, e ripeto, tutelata a reddito zero, ha un'imponenza zero, che vale a dire che tutto ciò che è consumo inerente a quello che è servizio idrico vale zero. Vuol dire zero, tu a me non mi puoi domandare nulla, a chi io vado un modello ISE, che è modello Stato, vale a dire reddito zero, ex dichiarazione redditi, ex, che mi mette la faccia nel culo, io non ti pago manco acqua. Infatti funziona così. Io non capisco il problema loro, perché devono imporre alla singola persona a pagare questi 15 euro di aumento. Non lo capisco veramente. Sì, Antonio, è un discorso che dobbiamo portare avanti con persone, dico capaci e non capaci, perché oggi il servizio idrico integrato in Sardegna vuol dire benessere un po' per tutti, poltrone, comandi soprattutto, che sono quelli che effettivamente stanno andando avanti, e opportunità di lavoro. Capisci? Cioè, il mio senso è quello che io non ho problemi, perché se ci fosse qualcuno che veramente a me, Claudio, dipendente della multinazionale, mi sta ascoltando, potrebbe dire: ma questo veramente cazzo non è imbecille. Ma come cazzo fai tu a dire che una persona deve pagare 100 euro, dico 100 euro, in due mesi di bimestre di consumo d'acqua, quando percepisce 300 euro di pensione al mese? Ma come ti cazzo vai tu? È così, guarda, io non so come facciano queste persone, cazzo, a poter... Ma non ci sono parole, Claudio, non ci sono parole. Io, ma il mio problema non è quello di criticare la mia azienda, per carità, me ne guarderei bene, perché io sono pagato per fare quel lavoro, tra l'altro non appartengo alle utenze e quindi non ho niente a che criticare, ma dico, se veramente una persona deve pagare 100 euro di bolletta ogni bimestre, vale a dire che sono 5 per 6, 30, 3 per 6, 18, quindi facciamo che stia pagando una minima parte di 80 centesimi a metro cubo, quanto cazzo ha consumato una persona che ha un nucleo familiare di due persone, quindi marito e moglie, e percepisce una pensione di 350 euro al mese e ne paga 156 euro ogni bimestre, deva, canto gatto, deve ne magnaghi o deve ne gaga. Sta allucinata, cazzo. È vero, il caso lì che non deve più mangiare né cancato, ma potesse mangiare leva con le palate. Normale. Tieni conto che dal 1 gennaio 2011 l'incremento idrico va assimilato o va incrementato, così per meglio dire, con il reflui. Quindi ti spiego. Allora, la rete fognaria ha una parte di incremento del 20% inerente a quello che è il servizio idrico integrato, vale a dire che tutto quello che tu consumi come acqua potabile va a incrementare nel tuo scarico. Ci sei? Allora, se io ho 50%, facciamo sempre metà e metà, un 50% di incremento idrico potabile, che è praticamente quello che io consumo per lavarmi, per cucinare, quindi stiamo parlando di acque bianche, vai a incrementare, lo vedete nella bolletta, va a incrementare quello che è il consumo a rete fognaria, quindi vale a dire che tu quello che scarichi dal lavandino per lavare i piatti del servizio idrico, quindi di acque bianche, va a incrementare con quello che tu scarichi in fogna. Sì, allora si fa un accumulo di quello che tu stai consumando nel bianco, va a incrementare su quello che tu vai consumare nel nero, così chiamato reflu. Ok? Quindi quella proporzione in quelle famiglie che sono, chiamiamole disabili, senza offesa per nessuno, ma che hanno un reddito zero, come cazzo fai tu a incrementare i due parametri che sono bianco e nero, per capirci, quindi acque bianche con reflue, e incrementarli in bolletta unica e farle pagare un accumulo cosiddetto di consumo. Mago già gatto si risendi. È vero. Cazzo, parlo tutte le cose a modo loro, non vanno bene. No, è assurdo, e confermo quello che hai detto. È una cosa assurda veramente. No, mi faceva una domanda mia moglie, dice, ma quelli che... C'è scritto al giornale che quelli che pagano meno di 7.000 euro, che hanno un reddito meno di 7.000 euro l'anno, non pagano. Esatto. Allora, tu immaginati, tanto domanda buona, quelli che hanno un reddito di 7.000 euro non pagano, e tu sei convinto che non pagano? Così c'è scritto il giornale, perché la Nuova Sardegna è un accumulo di idee e di confusione che nessuno capisce un cazzo. Abbanoa ha già detto che tutti quelli che usufruiscono del servizio idrico e non pagheranno una tassa minima di quelli che avranno un ISEE basso e una tassa massima, compreso l'aumento del quello che c'è scritto nel giornale, in base alla dichiarazione dei redditi. E ti barriuca te. Tanto mi sono rotto i coglioni. Ci credo. Anche perché, non perché io sia un perno, sia chi, ossia quello che possa dare idee o cose, ma io sono pronto a confrontarmi con chiunque, a fare un dibattito, anche in radio, non ho problemi, capite? Io sono pronto qua, a casa mia, dico, ripeto, pronto a casa mia, come si è verificato negli anni Ottanta, di poter portare, lo giuro che lo farò, di poter portare qua in stanza l'assessore dell'ambiente, o un mio funzionario, ha detto proprio, dico, un mio funzionario a livello regionale, e poter fare un dibattito e ci riesco, perché veramente ci riesco, e mettere un annuncio nel giornale e dire tal giorno a tal ora nel canale 10 ci sarà un dibattito, promotore Claudio Sparviero, o Claudio Marti, non ho problemi a dirlo perché non ho niente da nascondere con nessuno, e spiegare agli utenti pronti a domanda e risposta, chiaramente con molta educazione e molta tranquillità, per spiegare agli utenti quello che veramente in Sardegna il servizio idrico integrato, come e quando, diciamo col senno di poi, poter andare a dire veramente quello che noi dovremmo dare oggi e avere un domani per quanto riguarda proprio il servizio idrico. E questo lo farò, guarda, stai pur certo che lo farò, perché ne ho le capacità, ne ho la possibilità soprattutto, e giustamente sarà una cosa veramente veramente la grande, perché noi negli anni Ottanta l'abbiamo fatto con la buon'anima di un carissimo amico che era di Porto Torres, dove abbiamo organizzato alcuni dibattiti via radio con il sindaco, con assessori, con persone politiche, dove hanno spiegato veramente i problemi della Sardegna, anche via radio, così. Non è che i problemi si spiegano solo via telefono o via giornale, no? Si spiegano anche via radio, quindi via emittente, e questa è un'emittente, quello che noi abbiamo a disposizione è un'emittente radio, è una disposizione che noi possiamo avere con tutti, col dialogo con tutti, e qualcuno lo sa, qualcuno sa se lo sa che gli è successo. Quindi mi organizzerò e cercherò di farmi tutto perché a Sassari si possa veramente esprimere qualcuno che possa spiegare veramente le posizioni e sia in positivo sia in negativo di quello che può essere il servizio idrico. Eia, positivo. Beh, pensa che io vado a caricare Claudio. Sì, Antu, dai, andiamo a farci una carichetta, se mai ci sentiamo dopo, se ci sei mi fa piacere, dai, sono capito, comunque, due chiacchiere ce l'abbiamo fatte, se mai ci sentiamo dopo, ok, lascio tutto acceso qua, cappa. Ok, buona carica, avevo tutto dopo, ciao. Ciao miau. Ciao. Mancato, No, ma che? Dai, ci sentiamo pronto. Ehi, Claudio. Va via. Miau. Ciao, tappo. Perché dopo diventa un falchetto. Diciamo che sia uno passato quello cosa ti posso dire? Dalla bicicletta al Mercedes, dai, insomma, è tutta un'altra questione, no? Devo provare e vedere un attimo. No, per carità di Dio, è proprio bisogna farle, non è che il problema è questo, è che io preferisco più questa rispetto all'altra. Non so forchetto se... Sì, d'accordo, ma diciamo che in linea di massima è così, da avanti far che. Sì, sì, no, ottimo, molto bella radio, pulita, bellissima. No, ma tutte quelle di Russia vanno bene, cara. Non so se sia per la postazione o per le antenne, però vanno tutte bene, non ce n'è una che ne distorga niente, proprio bene. Ciao Sandro, bene fra. Ciao carissimo, ecco, vedi, ogni tanto mi salta il pallino, non riesco a capire perché, vabbè, comunque, ciao, perché bene riascoltato. Sì, no, vabbè, sempre piccoli accorgimenti riguardo la modulazione, avendo un timbro di voce un po' particolare, insomma, cerca un po' sempre di esplorare, come si dice. Adesso per dire a questo gli ho messo la babuccia e insomma piccoli accorgimenti che magari sulla modulazione, sul tono di voce possono influire, capito? Tutto lì. Sì, va bene, non c'è problema. Va bene, ottimo per la truppa. Questa è modulazione doc, l'altra è un po' così. Comunque, linea di massima, va bene. No, perché non era riferito a me, per carità, io ho quella timbrica che serve per far sì che i microfoni funzionino, a differenza di altri, va bene, anche se so uscio. Non è molto in forma, però vi ascolto tranquillamente, non c'è un problema. Questo è il Tanne più 3, per capirci è il baracchino è il Zodiac 5024, la base sempre, la base. Ok, avanti, Falchè, riprendi tu. Ce l'ho dietro, sento molto stanco io. Appa, 5 minuti, poi andavo a Nanakila. Così, no, belle radio, belle veramente, bei baracchini, belle modulazioni, non so, già molto molto molto bene, dipende, sa? Ok, e vabbè, dai, si tenta sempre di fare piccoli accorgimenti, come ho detto già poc'anzi, sempre influisce molto sul timbro di voce. Io mi ricordo che via dietro usavo lo Shure e lo Shure, diciamo, mi si addiceva, quindi, capito? Però dipende anche, diciamo, dall'apparato che ti aiuta. Sempre tanto da lavorare, tutto qua. Io ti faccio uno di quelli rabbiegetta come il tale più 3 e più 2 e così via. Hanno sempre quella caratteristica che è la modulazione, tutto lì. Vabbè raga, io mi gioco drumetti. Vi abbraccio a tutti, mi ha fatto piacere sentirvi, ma non per la volta qui. Ecco perché la mia assenza alla radio, sono stanco a posto. Se io non ho veramente riposo, non riesco a stare alla radio a parlare, a fare. I discorsi sono molto, molto belli, ma non ce la faccio. Credetemi, non ce la faccio. Mi gioco drumendi. Sono le 5 stamattina, sono in piedi, ma giocavo a Buglione e sono stanco molto avanti a voler andare al lavoro, e quindi vi lascio, vi abbraccio veramente col cuore, saluto tutti quelli che sono ascolto, ma me ne vado a dormire. Ciao Antonio, ciao Sandro e ciao a tutti, un abbraccio grande, ci sentiamo magari con più calma, ma sono stanco molto, dai, credetemi, non ce la faccio. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao, dai, le prendo io, buonanotte, Cody, dai, capi bene la stanchezza, poi è giusto che va bene, dai, buonanotte e buon trabacco per domani, se non ci sentiamo, e buon tutto, riprendi Sandro. Ok, ok, grazie, dai. Hai tutte le tue ragioni di esserlo, diciamo, abbattuto e tacco. Ok, buon tutto, buon riposo e buon inizio per domani, che coincide tutto a domani. Ciao Claudio. Ciao ragazzi, un abbraccio grande, buonanotte a tutti, buona nanna. Ciao ciao Claudio, e che dire, sa, io lo stesso, sa che vi saluto e me la buona nanna, ci sentiamo tutte alle migliori e alle prossime. Ciao Sandri, buona notte anche a te. Ok, dai, perché e anche io, insomma, morto tutto, mettiamo tutto a riposo. Ciao perché ce la sentiamo tutte le prossime. Ciao ciao ciao ciao ciao ciao, tutte le prossime, ciao ciao ciao.